Incontro tra titani. Steven Spielberg racconta Lincoln. Arriva nelle sale italiane il colossal storico sugli ultimi 4 mesi di vita del presidente americano che ha cambiato la storia, abolendo la schiavitù. Grande prova d'attore per Daniel Day-Lewis e 12 nomination agli Oscar. Una casa di riposo per musicisti immersa nella campagna inglese. E un drappello di ex cantanti lirici e professori d'orchestra alle prese con una nuova ospite, una vera star dell'opera. Commuove e diverte Quartet, esordio alla regia di Dustin Hoffman, con un cast tutto inglese in cui spicca una grande Maggie Smith. Ha fatto un miracolo. Solo lui poteva far atterrare quell'aereo in avaria salvando quasi tutti i passeggeri. Ma il comandante Whip Whitaker è ugualmente alla sbarra, perché Whip è un alcolizzato. È la trama di Flight, il ritorno di Robert Zemeckis, un solido dramma aviatorio con un ottimo Denzel Washington. L'olocausto visto da un tombino. In occasione della giornata della memoria arriva nelle sale In Darkness, la storia vera di un operaio delle fognature di Leopoli che salvò un manipolo di ebrei dallo sterminio nazista, nascondendoli e facendoli sopravvivere per 14 mesi nelle fogne. Nomination all'Oscar 2012.